stelle in cielo che continuano a ballare. Sembra che non abbiano capito che stanno per cadere. Luci lontane, forse già spente. Ci siamo abituati alle guerre, ai virus e a Sanremo, ai turisti del Mediterraneo, ai morti di cui è pieno, a vivere una vita tutto uguale come un déjà vu, al caldo demenziale, alle inondazioni, al freddo che non c'è più. Capita anche a te, non sai il perché, ma manca il respiro, manca il respiro, manca il respiro, manca il respiro, ma presto passerà, basta un aperitivo al bar, due calci ad un pallone, un po' d'amore giù in stazione. Ci siamo abituati che c'è chi non riesce a fare la spesa, che c'è chi è convinto di trovare Dio in chiesa, a chi compra due biscotti, un orgasmo e un bambino, a chi sputa ad un uomo e si commuove per un gattino, alle notizie false, ai suprematisti, ai tortellini con il ragù. Ci siamo abituati che chi urla ha ragione un po' di più. Una volta ci credevo tanto, ma non ci ho creduto fino in fondo. Mi sono abituato che non sono riuscito a cambiare il mondo. Volte anche a te capita che manca il respiro.